perché prima non ha mai fatto una cosa del genere. Chiedere la colazione a letto con due uova, da quando eravamo al City Arms Hotel, quando faceva finta di star male, con la voce da sofferente, faceva il pascià per rendersi interessante con Mrs. Riordan, vecchia befana, e lui credeva d'essere nelle sue grazie, e lei non ci lasciò un baiocco. Tutte messe per sé, per l'anima sua, spilorcia maledetta, aveva paura di tirar fuori 4 soldi per lo spirito d'ardere. Mi raccontava di tutti i suoi mali. Aveva la mania di far sempre i soliti discorsi di politica e i terremoti e la fine del mondo. Divertiamoci prima. Dio ci scampi e liberi tutti. Se tutte le donne fossero come lei a sputar fuoco contro i costumi da bagno e le scollature, che nessuno avrebbe voluto vedere addosso a lei, si capisce. Dico che era pia perché nessun uomo si è mai voltato a guardarla. Spero di non diventar come lei. Miracolo che non voleva ci si coprisse la faccia. Ma certo era una donna colta. E quelle buggerate su Mr. Riordan qua e Mr. Riordan là. Io dico è stato felice di levarsela di torno. E il suo cane, che mi odorava la pelliccia e cercava di infilarmisi tra le sottane, specialmente quando. Eppure questo mi piace in lui. Così gentile con le vecchie, i camerieri e anche i poveri. Non è orgoglioso di nulla proprio, ma non sempre. Se mai gli capita qualcosa di grave, è meglio che vada nell'ospedale, dove tutto è pulito, ma io dico, mi ci vorrebbe un mese per cacciarglielo in testa, sì. E poi ci sarebbe subito un'infermiera tra i piedi e lui ci metterebbe le radici finché non lo buttano fuori. O una monaca, forse, come quella di quella fotografia schifosa che è una monaca come lo sono io. Sì, perché sono così deboli e piagnucolosi quando sono malati. Ci vuole una donna per farli guarire. Se gli sanguina il naso, c'è da credere che sia un dramma in piena regola. E quell'aria da moribondo scendendo dalla circolare sud. Quando si era slogata una caviglia alla festa della corale di Monte Pan di Zucchero, il giorno che avevo quel vestito, mi sta che gli portò i fiori, il peggio che aveva trovato, appassiti in fondo al paniere. Cosa non avrebbe fatto per entrare in camera di un uomo con quella voce da zitella? Cercava di immaginarsi che stesse morendo per amor suo, non più mai rivederti. Benché avesse l'aria più da uomo, con la barba un po' lunga, a letto, papà era lo stesso. E poi non mi andava di fasciarlo e dargli pozioni quando si tagliò il dito del piede col rasoio a spuntarsi i calli. Paura d'un avvelenamento del sangue. Ma se fossi io, per esempio, ad ammalarmi, allora vorrei vedere un po'. Solo che la donna lo nasconde, si capisce, per non dare tante seccature come loro. Sì. Ha fatto qualcosa in qualche posto. Me ne accorgo dall'appetito. Comunque non è amore, se no non mangerebbe per pensare a lei così. O è stata una di quelle nottambule, se è davvero laggiù che è stato. E quella storia dell'albergo. Ha inventato un sacco di bugie per nascondere i suoi maneggi. È stato Heinz a trattenermi, che ho incontrato. Ah, sì, ho incontrato. Te lo ricordi, Menton? E chi altri? Guardiamo un po'. Quella faccia da bambinone, l'ho visto. E lui che non era sposato da molto a fare il pollo con una ragazzina al Mirjorama di Poole. E gli ho voltato le spalle quando lui se la svignava con l'aria colpevole. Poco male, ma ha avuto la faccia tosta di farmi la corte una volta. Ben gli sta. Bocca irresistibile e occhi sporgenti di tutti gli imbecilli che ho trovato. E lo chiamano procuratore. Cioè che io non posso soffrire battibecchi a letto. O se non è questo, magari qualche puttanella o roba simile raccattata vatte la pesca dove, o pescata di nascosto. Se lo conoscessero come lo conosco io. Sì, perché avantieri scribacchiava qualcosa. Una lettera. Quando capitai nella stanza sul davanti per i fiammiferi per fargli vedere la morte di Dignam nel giornale. Come se me l'avesse detto l'uccellino. E lui la coprì con la carta carta asciuga facendo finta di pensare al lavoro. E probabilmente era questo, a qualcuna che si creda aver trovato l'America con lui, perché tutti gli uomini diventano così alla sua età, specialmente sui 40, come lui, in modo da pappargli quanti più soldi possibile. Non c'è peggior sciocco di un vecchio rimbambito. E poi il solito bacio sul sedere, tutto per nascondere. Non me ne importa un fico secco con chi lo fa o chi aveva conosciuto prima in quel modo, però mi piacerebbe sapere qualcosa, purché non ce li abbia tutti e due sotto il naso tutto il tempo come quella strega, quella Mary che aveva a Ontario Terrace, che si imbottiva il sedere per eccitarlo. È già abbastanza sgradevole sentirgli addosso l'odore di quelle donnacce dipinte. Una o due volte mi è venuto il sospetto facendolo avvicinare. Quando trovai quel capello lungo sulla giacca, senza contare le volte che sono arrivata in cucina e lui faceva finta di bere dell'acqua. Una donna non gli basta mica a loro. Tutta colpa sua, si capisce. Viziare le serve e poi proporre di farla mangiare a tavola con noi a Natale. Per favore, oh no, grazie tante. A casa mia, no. Mi rubava le patate e le ostriche a 2 scellini e 6 pence la dozzina. Andava fuori per far visita alla zia. Ve lo dico io, una volgare ladruncola e nient'altro. Ma io ero sicura che c'era del tenero tra loro. Ci voglio io per scoprire queste cose. Lui diceva: Non hai prove. Era lei la prova. Oh sì, sua zia andava matta per le ostriche. Maledissi quel che ne pensavo. Mi trovava delle scuse per farmi uscire, per restare solo a casa con lei. Io non mi abbassavo davvero a spiarli. Le giarrettiere che trovai nella sua stanza quel venerdì che era fuori. Mi bastava questo, anche troppo. Le si cambiavano i connotati dalla rabbia quando le detti gli 8 giorni, ci pensai io. Meglio farne a meno del tutto. Le camere le fo più alla svelta io. Non fosse quella maledetta cucina e vuotare le immondizie. E in ogni modo, gli diedi la scelta. O fuori lei, o fuori io. Non lo potevo neanche toccare, a pensare che era stato con quella sporca, bugiarda faccia di bronzo e una sciattona come quella, che me lo negava in faccia, cantando dappertutto, anche nel WC, perché sapeva di aver le spalle ben protette. Sì, lui non può farne a meno per molto tempo, così bisogna lo faccia dove gli capita. E l'altra volta me lo scaricò di dietro quando fu. Ah sì, la notte che Boylan mi dette quella stretta di mano lungo la tolca. Una mano si infila nella mia. Io non feci che premere sul dorso della sua, così col pollice per rendere la stretta. Così, cantando la prima luna di maggio, lei raggiante d'amore. Perché ha una vaga idea che tra noi due non è così sciocco. Disse: Pranzo fuori e vado al teatro Gaiety. Però non intendo dargli la soddisfazione in tutti i casi. Dio sa che lui è qualcuno di diverso, in certo modo. Non essere sempre lì a portare lo stesso vecchio cappello. A meno che io non paghi qualche bel ragazzino per farlo. Mica lo posso far da sola. Gli piacerei a uno molto giovane. Sarebbe imbarazzato. Un po' sola con lui, se fossimo, gli farei vedere le giarrettiere, quelle nuove, e lo farei diventare rosso a guardarlo, sedurlo. So quel che provano i ragazzi con quei 4 peli sulle gote, sempre a tirarselo e maneggiarselo per ore e ore. Domanda e risposta. Lo faresti questo? E quest'altro ancora? Col carbonaio? Sì. Con un vescovo? Sì. Senz'altro perché gli avevo detto di quel decano vescovo che stava a sedere accanto a me nei giardini del Tempio degli Ebrei, quando lavoravo a maglia a quel golfino. Era nuovo di Dublino. Che posto è questo? E cos'è quell'altro? Eccetera, coi monumenti. E mi ha seccato con le statue. E incoraggiarlo, farlo peggiore di quel che è. Chi hai in mente? Di un po'. A chi pensi? Chi è? Dimmi il nome di chi, dimmi chi è. L'imperatore di Germania, sì, immagino io sia lui. Pensateci, lo sentite? Sta cercando di far di me una puttana. Non ce la farà mai. Dovrebbe piantarla ora, questa verde età è una rovina per la donna, non c'è soddisfazione. Fa finta di godere finché non viene e allora io finisco per conto mio alla bella e meglio. E questo lavoro ti fa sbiancare le labbra. Comunque. Ora è finita, una volta per tutte. Per quanto la gente ne parli, è solo la prima volta. Dopo non c'è più gusto. Ordinaria amministrazione. E lo fai senza pensarci sopra. Perché non si può dare un bacio a un uomo senza sposarselo prima? Certe volte andiamo alla follia, quando ci sentiamo così piene di piacere dappertutto. Non si resiste. Vorrei che un uomo qualunque mi prendesse qualche volta, quando lui è qui, e mi baciasse stringendomi a sé. Non c'è niente al mondo come un bacio lungo e caldo che ti arriva al cuore. Quasi ti paralizza. E poi non posso soffrire la confessione. Quando andavo da padre Corrigan, mi ha toccata, padre. E che male c'è? Dove? E io dicevo, sulla riva del canale, come una stupida. Ma dove? Sulla vostra persona, figlia mia, sulla gamba dietro in alto, era mica piuttosto in alto, era mica dove ci si siede, sì, oh signore, non poteva dir subito il sedere buonanotte. E che cosa c'entrava tutto questo? E avete anche, non mi ricordo la parola, no, padre, e io pensavo sempre al vero padre, che bisogno aveva lui di sapere quando io avevo già confessato tutto a Dio? Aveva una bella mano grassa. La palma sempre umida. Mi piacerebbe toccarlo e non sarebbe dispiaciuto nemmeno a lui a giudicare da quel collo taurino nel collettone. Chissà se mi ha riconosciuto nel confessionale. Io lo vedevo in faccia benissimo, ma lui no, si capisce, non si è mai voltato, né ha lasciato veder nulla. Eppure aveva gli occhi rossi quando morì suo padre. Sono perduti. Se hanno una donna. Deve essere terribile, certo, se piange un uomo, specialmente loro. Mi piacerebbe farmi abbracciare da uno di loro, con quei loro paramenti e quell'odorino di incenso come il Papa. E poi non c'è mica pericoli con un prete, se sei sposata, lui è cauto per suo conto. Poi dar qualcosa a Sua Santità il Papa per penitenza. Chissà se è rimasto soddisfatto di me. Una cosa che non mi va sono quelle sculacciate quando andava via. Troppa confidenza nel vestibolo, per quanto ridessi, mica sono un cavallo o un asino. Dico che pensava a suo padre. Chissà se è sveglio a pensare a me o se sogna forse di me. Chi gli ha dato quel fiore che ha detto di aver comprato? Odorava di una bibita, né whisky né birra, forse quella specie di colla zuccherosa con cui attaccano i cartelli, con qualche liquore. Mi piacerebbe sorbirne quelle bevande costose, verdi e gialle, che gli elegantoni che fanno la posta alle attrici bevono con quei cilindri. L'ho assaggiata una volta sulla punta del dito che avevo infilato nel bicchiere di quell'americano che aveva uno scoiattolo e parlava di francobolli con papà. Faceva una fatica a cane per tenersi sveglio dopo l'ultima volta. Abbiamo preso il porto e la pasta di carne. Avevano un buon saporino di salato. Sì, perché mi sentivo tanto bene, stanca anch'io. E mi addormentai come un sasso, non appena mi infilai a letto, finché quel tuono mi svegliò come fosse la fine del mondo. Dio abbia pietà di noi. Pensavo che il cielo stesse per crollarci addosso, per punirci. Quando mi feci il segno della croce, dissi un'Ave Maria, come quei fulmini spaventosi a Gibilterra, come se il mondo stesse per finire. E poi ti vengono a dire che non c'è Dio. Cosa si poteva fare se fosse entrato dentro e avesse imperversato dappertutto? Niente, solo un atto di contrizione. Il cero che ho acceso quella sera nella cappella di Whitefriars Street per il mese mariano, vedi bene che ha portato fortuna. Ma lui mi prenderebbe in giro se lo sapesse, perché non va mai in chiesa, né a messa, né alle riunioni. Dice che è l'anima, ma non esiste un'anima, solo materia grigia dentro, perché non sa cosa voglia dire averne una. Sì. Quando ho acceso la lampada, sì, perché deve essere venuto 3 o 4 volte con quel tremendo bacchiolo grosso e rosso che ha. Io pensavo che la vena, o come accidenti la chiamano, stesse per scoppiargli, per quanto il naso non ce l'abbia tanto grande. Dopo che mi son levata tutta la roba di dosso, dopo aver tirato le tendine e con tutte le ore che ci ho messo a vestirmi e profumarmi e pettinarmi, come un ferro. Ho una specie di grossa sbarra che sta ritta tutto il tempo. Doveva aver mangiato ostriche, mi par qualche dozzina. Aveva la voce in gran forma. No, non ho mai sentito nessuno in vita mia che ce l'avesse così grosso da sentirsene tutta piena. Deve aver mangiato un bove. Che idea, farci così, con quel gran buco in mezzo, come uno stallone che te lo caccia dentro. Perché questo è tutto quel che vogliono da te, con quella decisione cattiva nello sguardo. Io dovevo socchiudere gli occhi. Però non ne ha molto di brodo. Quando glielo feci tirar fuori perché me la sciorinassi all'aperto, considerando com'è grosso, è sempre meglio, semmai ne rimanessi un po', se non mi lavo bene. L'ultima volta lo lasciai finir dentro. Bella invenzione per le donne, che tutto il piacere debba andare a lui. Ma se se ne facessi assaggiare un po' anche a loro, se ne accorgerebbero di quel che ho passato con Milly. Nessuno ci crederebbe quando poi metteva i denti. E il marito di Mina Purfoy, con quei baffoni a manubrio che le fa scodellare un bambino o un par di gemelli una volta all'anno come un orologio, sempre odor di bambini addosso. Quello che chiamano tutù o qualcosa come uno zulù con tutti quei capelli, Gesù vero. Il bambino è tutto nero. L'ultima volta che ci sono stata, una masnada che si buttavano l'uno sull'altro e strillavano da spaccarti i timpani. Dice che è tutta salute. Non sono contenti se non ci vedono gonfie come elefanti o non so che cosa. Mettiamo che rischi di averne un altro. Non da lui, per quanto se fosse sposato non c'è dubbio che avrebbe un bel bambinone. Ma non so, Poldi ha più brodo, sì, ci sarebbe da divertirsi. Dico che è l'incontro con Josie Powell, il funerale e il pensiero di me con Boylan. L'ha alluzzato. Pensi quel che gli pare ora, se questo gli fa buon pro. So che pomiciavano un po' quando sono comparsa io. Lui ballava con lei e poi le si sedette accanto la sera che Georgina Simpson inaugurava la casa. E poi voleva darmi a bere, che era stato solo per non farle far tappezzeria. E così si arrivò a quella leticata per la politica. È stato lui a cominciare, io no. Quando disse di nostro signore che era un falegname, alla fine mi fece piangere. Una donna, si sa, è sensibile a tutto. Poi mi sarei mangiata le mani per aver ceduto, soltanto perché vedevo che aveva perso la testa per me. Il primo socialista, diceva, era stato lui. Mi aveva talmente irritata perché non potevo farlo uscire dai gangheri. Però sa un sacco di cose, di tutti i generi, specialmente sul corpo e quel che abbiamo dentro. Spesso volevo studiar bene anch'io quel che c'è dentro, in quel medico di famiglia. Si sentiva sempre la sua voce che parlava quando c'era un mucchio di gente a sorvegliarlo. Dopo quella volta ho fatto finta di essere un po' fredda con lei a causa sua, perché lui poi era un po' geloso. Quando veniva a chiedere da chi vai, e io dicevo una scappata da Floy, e lui mi regalò le poesie di Lord Byron e le tre paia di guanti. E finì così. Mi ci voleva poco a fargli far pace. So io come, anche se si rimettesse a pane con lei e l'andasse a trovare da qualche parte, lo saprei benissimo. Se non volesse mangiar cipolle, conosco tutti i trucchi. Chiedergli di mettermi a posto il colletto della blusa, o toccarlo con la veletta e i guanti quando esco, un bacio, e allora le manderebbe tutte a gambe all'aria. Però benissimo, la vedremo, che ci vada pure. A lei, se capisce, non parrebbe vero di far finta di essere innamorata pazza di lui. Non ci farei molto caso, andrei da lei e le chiederei se lo ama, sì o no, e la guarderei fissa negli occhi. Non me la farebbe, ma lui potrebbe immaginarsi di sì e farle una dichiarazione con quei discorsi a cavatappi come ha fatto con me, per quanto dovetti sudar quattro camicie per cavargli fuori qualcosa, per quanto non mi seccasse, perché voleva dire che sapeva controllarsi e che non bastava aprir bocca perché lui si concedesse. Ci mancò un pelo che si decidesse quella sera in cucina che preparavo la torta di patate. C'è qualcosa che voglio dirle, solo che io gli tappai la bocca, dando a intendere d'essere arrabbiata, con mani e braccia tutte infarinate. In ogni caso avevo mollate troppe cose la sera prima a parlare di sogni e non volevo che ne sapesse più del necessario. Lei non faceva che abbracciarmi, Josie, ogni volta che c'era lui. Era per lui, si capisce, mangiandomi con gli occhi. E quando dicevo che mi lavavo su e giù il più possibile, mi chiedeva: e ti sei lavata il possibile? Le donne cercano sempre di andare a finir lì, dandoci dentro quando c'è lui. Lo capiscono da quello sguardo da furbacchione. Strizza un po' l'occhio, fa l'indifferente quando tirano fuori cose del genere. È quel che lo rovina. Non mi meraviglia affatto, perché era molto attraente a quel tempo. Cercava di imitare Lord Byron. Dicevo che mi piaceva, per quanto fosse troppo bello per un uomo, e gli assomigliava un po' prima che ci si fidanzasse. Più tardi però non le faceva più tanto piacere come quel giorno, che mi buttai giù dal ridere e non mi fermavo più con tutte le forcine che cadevano l'una dopo l'altra con la massa di capelli che avevo. Sei sempre d'ottimo umore, diceva lei, sì, perché questo la faceva imbestialire, perché sapeva cosa voleva dire, perché io le raccontavo parecchie cose di quelle che facevamo tra noi due, non tutto, ma sempre abbastanza da farle venire l'acquolina in bocca. Ma non era colpa mia. Lei non si fece quasi più viva dopo che eravamo sposati. Chissà com'è diventata ora, con la vita che fa, con quel marito squinternato. Aveva il viso che cominciava a sembrare tirato e stanco. L'ultima volta che l'ho vista, deve essere stato dopo una leticata con lui, perché vidi subito che mirava a far cadere il discorso sui mariti, per parlare di lui, per denigrarlo. Cosa mi disse? Ah, sì, che delle volte lui andava a letto con le scarpe sporche di fango quando gli piglia la luna. Pensa un po', andare a letto con un coso come quello, ti potrebbe ammazzare, come ridere. Che uomo! Non tutti ammattiscono allo stesso modo. Poldi, almeno, farà di tutto, però si pulisce sempre i piedi sulla stuoia quando torna, pioggia o sole. E poi si lucida sempre da sé le scarpe e si leva sempre il cappello se ti incontra per la strada. Così. E ora va in giro in ciabatte in cerca di 10.000 sterline per una cartolina. S.U. su. Oh, amica mia carissima, una cosa così ti fa crepar di noia. Così stupido che manco le scarpe si leva. Cosa ci se ne fa di un uomo come quello? Preferirei morire 20 volte piuttosto che sposarne un altro di quel sesso. Certo, mica la trovo un'altra come me che lo sopporti come faccio io. Vieni a letto con me, sì, e in fondo al cuore lo sa. Guarda quella Mrs. Maybrick che ha avvelenato il marito. Chissà perché. Innamorata di qualcun altro, sì, l'hanno scoperto, ma è stata sì o no una delinquente nata a fare una cosa del genere? Certo, ce ne sono alcuni che sono terribilmente irritanti, ci fanno diventare matte e sempre dir male di noi, perché poi ci chiedono di sposarli se siamo così cattive come dicono. Sì, perché non sanno tirare avanti senza di noi. Gli mise dell'arsenico bianco nel tè, tolto dalla carta moschicida. Mi domando perché si chiama così. Se glielo chiedessi mi direbbe vien dal greco, ne sappiamo quanto prima. Doveva essere pazzamente innamorata di quell'altro per correre il rischio d'essere impiccata. Uff, se ne infischiava, se era la sua natura che ci poteva fare. E poi non saranno così brutti da prendere e impiccare una donna. Positivo.